potesti arbace. Oh, troppo intesi, io sono degli amanti fedeli, dichiararsi infedel con tanto ardire. Questo è penor, questo è morir. Or peccato l'asino, mal sicuro è per me. Cesare armato che minaccia e spaventa. Cambia sorte, che non manca vendetta una.